Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno impari 80 premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia. Carissimi ascoltatori di Old Games Italia, Italian Podcast Network, benvenuti alla nuova puntata di Archeologia Videoludica. Volevo innanzitutto evidenziare l'enorme lavoro che All Games Italia sta facendo su Zork. Apre una porta importante ad un mondo che troppo a lungo è rimasto in lingua originale. E in Italia, si sa, le lingue sono ancora poco conosciute, soprattutto quando serve conoscerle bene per capire le sfumature del testo e dare comandi specifici risolvendo le avventure. Vorrei però evidenziare alcuni aspetti rievocati con Zork che forse non sarà l'avventura migliore, ma che comunque è di grande rappresentatività commerciale e quindi divulgativa. Le avventure testuali, pur con i loro limiti, hanno sempre avuto un grande fascino, proprio come la grande letteratura. Purtroppo, come nella stessa letteratura, in Italia queste cose funzionano poco per varie ragioni, ma non per questo vanno considerate meno importanti. A parer mio, infatti, si deve smettere di valorizzare la cultura e la creatività sulla base dei numeri. Le minoranze non valgono meno delle maggioranze. Soprattutto nella cultura e nella creatività, l'importante è il gesto artistico. Si pensi, ad esempio, al teatro, a certi siti web, a certe mostre pittoriche, luoghi talvolta frequentati pochissimo ma di grandissimo valore. Oggi vince solo chi ha una comunicazione forte e ben strutturata, ma purtroppo non per questo dedicata a contenuti di maggiore valore. Zork rappresenta un mondo, quello sotterraneo, quello delle avventure testuali, della narrazione fiabesca, che come anche la fantascienza ci raccontano metaforicamente delle nostre paure, dei nostri desideri, dei conflitti, delle alleanze. I quiz, i rebus, o come altro li si vuol chiamare, sono solo un linguaggio, forse anche una misura che l'uomo, adulto e bambino, da sempre usa per correlarsi agli altri in modo evoluto, metaforico, iperbolico. Quale valore maggiore della narrazione e nella sua distribuzione in un mondo che non ti dà più nemmeno il tempo per respirare? Benvenuto Zork in italiano e grazie per darci il tempo di indagare, scavare, scoprire, giocare. Paolo Gabriele Sfredda, www.creativaweb.it. Episodio di Archeologia Videoludica. Diamo immediatamente tutti quanti i riferimenti: www.archeologiavideoludica.net è il sito di riferimento. Archeologia Videoludica chiaramente lo trovate come pagina sia su Facebook che su Google Plus, ovviamente Videoludica è su Twitter @Videoludica, e archeologiavideoludica@gmail.com è la nostra posta di riferimento. Questa trasmissione, come ho già detto all'inizio, è coprodotta tra allgamesitalia.net e Italian Podcast Network. Ringraziamo chiaramente anche Andrea Milana per le tracce remix che di solito fornisce per questa puntata, per i brani che ascoltiamo a mezzo episodio, e lo ringraziamo facendo ovviamente pubblicità al suo www.vintagegameremix.com. chi è con me a presentare questo nuovo episodio di Archeologia Videoludica, che ha un titolo un po' articolato, che dovrebbe essere Quando uccisi il troll con la spada, e poi c'è anche un sottotitolo che ha messo Alex Raccuglia successivamente. Ovviamente abbiamo oramai quello che è il capobanda, Marcus Brodi, Roberto Bertoni, anche detto Zam. Ciao Roberto. Ciao a tutti, buona serata. Effettivamente il titolo non è ai livelli di quello precedente, però ci accontentiamo, mettiamola così. No, ma perché la gente non ha letto il piano editoriale, tipo, che ne so, buona la seconda, queste cose così. Però ti ringraziamo sempre per il tuo grande genio. Ringraziamo anche Alex Raccuglia. Ciao Alex. Ciao a tutti. Ciao. Ok, Alex, che di solito, come sapete, si occupa soprattutto della conduzione, della parte tecnica di questa trasmissione, però ovviamente in questo specifico caso partecipa anche come competenza tecnica, perché ha anche studiato cose ed elementi che, come sapete, io, insomma, ho studiato sicuramente di meno, già lo sapete, non dire che ve lo spiego, insomma. Abbiamo un ospite per questo episodio, quindi l'ultimo ad intervenire in questo specifico episodio, ed è Marco Vallarino. Ciao Marco. Buonasera, ciao a tutti, in particolare ai troll in ascolto, che sappiamo su internet essere sempre, ahimè, numerosi. Sempre belli presenti e corposi, hai ragione. Marco, se vuoi fare una piccola introduzione, ti vuoi presentare, poi dopo ovviamente ritorneremo anche su questa, insomma, parleremo sì, anche... Io sono uno dei tanti trentenni folgorati negli anni Ottanta sulla via di Zork, da questi videogame testuali che una volta erano un grande fenomeno commerciale, vendevano milioni di copie in tutto il mondo proprio grazie ai primi successi della Infocom con la trilogia di Zork, e oggi sono un caposaldo del vintage che continua a prosperare grazie a una comunità che in tutto il mondo ogni anno sforna giochi nuovi. Ok, tu poi tra l'altro hai anche realizzato qualche avventura testuale, se non sbaglio, giusto? Sì, io sono uno dei più irriducibili, di quelli che possono anche fare a meno di grafica e sonoro per divertirsi. Il mio ultimo gioco, citato in qualche vecchia puntata di Archeologia Videoludica, si chiama Darkis, il bacio del vampiro, e guarda caso, come Zork, è ambientato in un oscuro sotterraneo che come scenario rappresenta un po' un caposaldo di questo genere avventuroso. Perfetto. Allora, come si è capito, Roberto, noi in questa puntata parleremo di Zork, che è una delle primissime avventure testuali che siano mai state prodotte, e quello che viene considerato un caposaldo, insomma, della storia videoludica, soprattutto proprio nell'insieme, proprio per la sua grande popolarità, che fu prodotto nel lontano 1980 e viene definita l'avventura testuale per antonomasia, anche se poi in realtà non è in assoluto la migliore. Anche successivamente la Infocom ne produsse anche di gran belle e superiori. Comunque Zork è comunque rimasta un'avventura estremamente popolare, estremamente famosa anche in Italia, pur nonostante tutte le grandi difficoltà che ci sono per quanto riguarda ovviamente la questione linguistica, perché è come tutti abbiamo già spiegato in episodi precedenti parlando di avventure testuali, ovviamente le avventure testuali sono strettamente collegate al testo, appunto, quindi anche all'interazione con la lingua, e quindi l'utilizzo della lingua stessa. Oggi racconteremo, Roberto, insomma, la genesi, l'importanza e la storia di questo gioco, cercando poi di farci anche aiutare proprio da Marco, che probabilmente, insomma, non soltanto ha appunto prodotto avventure come Darkis, ma insomma di Zork dovrebbe essere un appassionato, giusto Roberto? Sì, infatti diciamo che il bello di raccontare di Zork è che un gioco che è sempre basato un po' sulle parole, sull'effetto, raccontato via voce, secondo me può rendere meglio che magari un qualsiasi filmato, un qualsiasi video. Quindi l'esperienza direi che emerge e spero emergerà durante tutto il podcast. Peraltro, e mi attacco un po' a quello che dicevi tu, come già ricordato in passato, il Games Italia sta occupando di tradurre anche questo Zork, quindi con buon beneficio a chiunque voglia provarlo in questi anni, perché come sapete l'inglese può essere un ostacolo a volte. Poi magari ne parliamo, perché molti so che sono curiosi anche di sapere un po' quello che possiamo sapere dello stato dei lavori, insomma, rispetto a questa opera di traduzione che stanno cercando di fare. Ma a questo punto entriamo direttamente nel vivo di questa trasmissione bella corposa, e quindi senza perdere tempo, senza news come nelle occasioni passate, vi ricordiamo soltanto che è uscita da poco il secondo episodio di Calavera Caffè, che è il podcast totalmente dedicato alle avventure grafiche. Quindi, insomma, chi è appassionato di questi generi, tra avventure testuali, grafiche e via dicendo, insomma, può tranquillamente andarsi a cercare Calavera Caffè su iTunes. Il podcast, come abbiamo detto più volte, sta riscuotendo veramente un grandissimo successo nell'ambito degli appassionati. Quindi entriamo nel Barnett College. Perfetto, abbiamo detto che parliamo di Zork. Zork, insomma, è un nome, una garanzia, è un marchio, cioè è un... forse probabilmente vive più del suo mito che della reale conoscenza, insomma, all'interno dei videogiocatori o degli appassionati italiani, proprio per quello che abbiamo detto, anche magari per problemi di lingua. E Roberto, iniziamo con la genesi di Zork. Beh, per iniziare a parlare della genesi di Zork, probabilmente è buona cosa fare anche un piccolo accenno magari a Infocom, che è una software house che al 99,9% di quelli nati facciamo 1990 in poi, non dirà nulla probabilmente, ma è stata una delle software house più famose. Per intenderci, per una generazione, penso possa essere paragonata un po' alla Lucas per me e per te, o magari per te no, visto che sei un più anzianotto, un po' più attempato. Sempre belle parole. Sì. Oppure l'Activision di adesso. Ecco, insomma, diciamo sicuramente una software house importante con un background interessante. Vorrei studiare anche un altro aspetto, prima di parlare un attimo appunto di questa casa, della sua provenienza. È una software house inglese e secondo me in un ambito di interactive fiction, quindi in un ambito di narrativa, questa cosa è abbastanza importante, perché si porta dietro tutta una serie di mitologie, di narrativa, di capacità di raccontare, che secondo me è tipica britannica. Cosa che ad esempio, se vogliamo fare un paragone con i tempi moderni, buona parte produzioni americane spesso non ha. Adesso non vorrei lanciare troppo nella discussione, però sicuramente secondo me è un punto che dobbiamo tenere in considerazione. Certo. Ok. Diciamo appunto di Infocom. Allora, Infocom è formata da quattro personaggi che probabilmente non sono conosciuti nelle loro singolarità, ma comunque hanno creato quello che è una vera e propria leggenda. Vi cito, nonostante lo sprezzo e il pericolo per la pronuncia dell'inglese, quindi Dave Liebling, Mark Blank, Albert Vezza e Joel Beretz. E mi dispiace quindi... che qui non c'è il distruggitore a correggerti, ma insomma in linea massima penso che ti sei divincolato più o meno quasi decentemente. Sì, diciamo che ho saltato il fosso e probabilmente questa volta non sono caduto. Comunque, appunto, è stata fondata nel 79 e una delle produzioni più importanti di cui sono artefice è sicuramente Zork. Zork si inserisce all'interno di un contesto di avventure testuali dove, giusto per dare qualche riferimento, e qua Marco secondo me può aiutarmi sicuramente, abbiamo l'introduzione di un parser molto evoluto rispetto a quello che si era avuto finora, nel senso che il parser, che è quella linea di comando che interpreta quello che il giocatore vuole che il proprio personaggio compie all'interno del gioco, ecco, se prima si poteva basare semplicemente su semplici frasi del tipo apri porta o prendi spada, ecco, adesso diventa un po' più evoluto, in quanto ad esempio si possono addirittura usare frasi del tipo uccidi il troll con la spada, quindi un po' più articolate. Magari questa cosa vi fa sorridere, però penso che soprattutto all'epoca era vista un po' come una rivoluzione, una sorta come, per assurdo, se parliamo di un passaggio dal 2D al 3D. Marco, tu vuoi dirci qualcosa sulla tua esperienza su questa cosa? Beh sì, la Infocom ha rappresentato un grosso salto di qualità per quanto riguarda l'allestimento di avventure testuali nei primi anni 80, non solo per quanto riguarda il parser, perché anche altre software house dell'epoca come la Melbourne House utilizzavano degli esami complessi della frase dei giocatori, ma secondo me soprattutto per quanto riguarda proprio lo stile dei testi, le descrizioni. Si trattava di progetti praticamente metaletterari che non avevano nulla da invidiare a romanzi d'appendice o a racconti dell'epoca, e questo conquistò un pubblico sostanzialmente più adulto di quello che in genere si dedicava ai videogiochi, e contese a molte altre opere di intrattenimento dell'epoca lo stato dell'arte. Comunque non dimentichiamo che anche autori come Douglas Adams, molto blasonati, negli anni contribuirono a scrivere giochi per la Infocom. Marco, una curiosità così al volo, giusto perché tu comunque fai parte di quella schiera di grandi appassionati e che comunque vivono anche attivamente il proprio interesse per l'avventura testuale. Quando è che sei entrato a contatto con Zork per la prima volta e come ti ci sei divincolato? Guarda, in realtà molto tardi, cioè nel 1993, quando avevo già il mio PC, quindi avevo abbandonato un po' la scena classica ludica del Commodore 64 dell'Amiga, trovai per posta questa raccolta di vecchi classici della Infocom, la famosa Lost Treasures of Infocom. Chiaramente il primo gioco della raccolta era Zork 1, fu il primo che provai e fu sicuramente amore a prima vista, perché quello che mi piaceva di più dei giochi di avventura, sia di quelli testuali che di quelli grafici, era la possibilità di esplorare vasti scenari, specialmente in dimensioni sconosciute. Quindi questo sotterraneo che si apre sotto la casa abbandonata nella foresta era, per me, ci stava come il calcio sui maccheroni. È stata un'esperienza durata settimane e in buona parte, ammetto, agevolata dagli aiuti pubblicati insieme al gioco, che spesso in queste avventure più complesse, più commerciali, almeno all'epoca, erano fondamentali. Comunque, non dopo i primi mini giochi degli anni 80 sperimentati sul Commodore, forse Zork era uno dei primi giochi veramente ambiziosi con cui io mi cimentavo già sedicenne. Ok, quindi raccolta della una delle prime grandi raccolte di Infocom, e parliamo allora appunto proprio di Infocom, Roberto, a questo punto. Cerchiamo di fare una sorta di introduzione, anche se già ne abbiamo parlato e poi ne riparleremo, insomma, in futuro su Archeologia Videoludica, proprio perché ovviamente, insomma, l'argomento di avventure testuali e anche evoluzioni successive è un argomento ancora ben lungi dall'essere completato. Sì, allora, penso che sicuramente ci torneremo sopra, perché come ben sapete abbiamo pochissimi argomenti di cui discutere e la nostra cronologia probabilmente sta volando un po' troppo in là, nel senso che rischieremmo di vedere macchine come l'Amiga prima del 2015, quindi non penso sia il caso di andare così veloci. No, infatti. Ti interrompo un secondo, carissimi ascoltatori, ricordatevi che per una grave malattia genetica Roberto Bertoni non ha il gene che gli consente di fare sarcasmo e di essere capito, per cui andateci piano. In realtà lui stava facendo una battuta. Spieghiamola questa cosa. Guarda, non ho visto i sottotitoli che passavano mentre stavo parlando. No, non vediamo più per niente. Un altro gene mancante, Bertoni non si è accorto che questo è un podcast audio e dunque non ha sottotitoli. Va. Bertoni, basta, perché sennò ti finiscono i geni e io non so come giustificarti, eh? Vabbè, dopo questa disamina genetica della mia specie, quindi spero che almeno mio figlio abbia il gene del fatto dell'odio profondo verso i miei compagni di podcast, e se non ce l'ha glielo instillerò io nel tempo, quindi non è un problema. Ma no, torniamo a parlare di Infocom, che appunto merita qualche parola in più sicuramente adesso. Penso che Marco abbia ben introdotto il discorso del contesto storico, quindi probabilmente non era la sola casa che proponeva qualcosa dello tecnologico, però a livello narrativo era una casa che era capace di veramente raccontare qualcosa di particolare. Giusto per citare qualche titolo, al di là di quella che può essere la serie di Zork e la guida galattica per autostoppisti di Douglas Adams, abbiamo anche altre opere veramente meritevoli, tipo A Mind Forever Voyaging, che è un altro racconto fantascientifico veramente interessante, abbiamo Planet Fall, abbiamo tutta la serie di Enchanter, insomma. Possiamo veramente vedere Infocom come la vera alfiere di quello che sono avventure testuali, e che piano piano nel tempo seppero portare addirittura questa casa ad abbracciare quasi gli albori delle avventure grafiche, sebbene diciamo che il suo ingresso non è stato così, possiamo dire, indolore come ci si poteva sperare, ecco, questo sicuramente no. Ok, qualcosa da aggiungere? Qualcosa, Simo, ho sentito... Scusa? Ho sentito un sospiro feroce, mi sono fermato, pensavo qualcuno volesse intervenire, scusatemi. No, ero io che chiedevo se qualcuno vuole intervenire, se c'era qualcuno che voleva aggiungere qualcosa in merito a questa, insomma, a questa tua piccola digressione infocommiana. Marco, Alex. No, ecco, se poi, senso, per lanciare magari quello potrebbe essere uno spunto. Una delle peculiarità di Infocom era anche le confezioni dei giochi che proponeva. Adesso non so se Marco si ricorda qualche titolo che gli è passato per mano, originale, oppure se anche tu, Simone o Alex, avete visto qualcosa, però era veramente qualcosa di spettacolare, nel senso che il packaging era parte integrante del gioco. Ma guarda, in generale i giochi Infocom. Mi ricordo in particolare un caso veramente emblematico, quello nel... del Commodore 64 con Wishbringer, che all'interno della confezione ospitava una busta sigillata chiusa che tu potevi aprire solo a un certo punto della storia per leggere alcune righe che ti dicevano che cosa fare da quel punto del gioco in poi, quindi un elemento fortemente interattivo e non solo curioso, peculiare di quel gioco. In teoria senza quella busta, senza quel gadget, non si sarebbe potuti andare avanti nel gioco, quindi quasi un elemento antipirateria pionieristico. Sì, questo è sicuramente uno degli aspetti che appunto mi ha sottolineato anche altre volte, quindi quello delle confezioni per il discorso a pirateria, però anche appunto anche valore artistico, nel senso che molti degli oggetti che erano all'interno di questi giochi poi sono stati oggetti a collezione, non indifferente. E se non ricordo male, una recente raccolta proposta per sistemi della Apple, quindi vari iPhone eccetera eccetera, ha dovuto digitalizzare parti di questi elementi appunto per permettere al giocatore di poter fruire il gioco in maniera corretta. Non so se Simone tu sei appassionato, spero che magari hai fatto questo acquisto. Oddio, vabbè, adesso mi metti un po' in difficoltà, dovrei dire delle cose che è meglio che non dico, quindi poi magari ne riparliamo in un'altra occasione. Hai un cugino che... Simone, te lo dico, ricordati che era sarcasmo anche questo. Ah, ok. Ma questo non era sarcasmo, quindi no. Sto parlando di mio cugino, quello famoso che mi portava a vedere i videogiochi. Ah, ecco, sì, no, il problema è che bisogna sempre vedere a Roma negli anni 80-90 dove li prendevi i videogiochi, insomma, sempre questo è un po' il problema in generale, però vabbè, comunque... Era un regalo col pesce, mi dicono, quando andai al mercato. Sì, a volte sì. Anche dentro Gym Fizz te ne mettevano i videogiochi, Vedi? Lo spaccio clandestino. No, io dicevo, quindi diciamo che per Infocom non vorrei rovinare troppo l'atmosfera di quella che sarà questa fantastica puntata che prima o poi faremo. Però magari ci addentriamo un po' più su Zork e prima magari di collegarci direttamente alla trama, penso che sia interessante parlare un po' di quello che è l'approccio di Zork, nel senso, e qua sono sicuro che Marco potrebbe aiutarmi. Nel senso che, non so se siete presente un po' il gioco, se avete avuto modo di provarlo o quant'altro, era un gioco molto severo col giocatore, nel senso non ti permetteva di sbagliare in maniera fin troppo guidata come spesso succede ora. Ecco, invece adesso l'approccio probabilmente è diverso, quindi la difficoltà di potersi inserire all'interno di un contesto ludico che è quello di Zork nei giorni nostri potrebbe essere difficoltosa nonostante il valore del gioco. Marco, so che su questa cosa è abbastanza sensibile, sbaglio? Sì, diciamo che lo è tutta la comunità di sviluppatori e giocatori odierna di Interactive Fiction. Ci sono addirittura 5 gradi, non tanto di difficoltà quanto proprio di gentilezza del gioco nei confronti del giocatore. Si va dal grado 1 polite, in cui che vuol dire appunto gentile, in cui addirittura il giocatore non può né morire né rimanere bloccato, mentre il grado 5, il più feroce, è proprio chiamato crudele, perché il giocatore oltre che morire può anche rimanere bloccato in un vicolo cieco, in un cul-de-sac, come si diceva all'epoca, in cui lui non può più risolvere il gioco, ma non lo sa, quindi continua a girare per l'avventura ignorando che è bloccato, che non potrà mai arrivare alla fine. Una cosa che 30 anni fa era considerata assolutamente legittima, probabilmente perché le avventure erano prodotti commerciali che dovevano durare il più possibile per motivare il loro costo, quindi anche se uno rimaneva bloccato senza poter finire il gioco, in fondo era solo un elemento in più per aumentarne la difficoltà. Oggi questa cosa è deprecata, deplorata, e gli autori che bloccano i giocatori nelle loro opere sono stigmatizzati da tutti gli altri, perché oggigiorno, essendo sparite dal mercato commerciale, le avventure vengono ritenute più che altro un piacere, non solo per chi le scrive, ma soprattutto per chi le gioca. Ma tenendo sempre in considerazione che avventure, ovviamente parliamo di avventure testuali, ovviamente hanno un rapporto estremamente feroce, molto forte con quello che è la narrativa e quindi con la letteratura e quindi con la lettura, in un paese come il nostro, che non soltanto per il problema che abbiamo detto prima, quindi magari le difficoltà con l'inglese, ma proprio per problemi rapportati proprio con la lettura stessa, insomma, comincia a diventare veramente un... Insomma, le difficoltà ci sono oggettivamente, sono tante, penso, in un paese come il nostro, forse probabilmente anche a livello generale, però so che magari, che ne so, nei paesi anglosassoni, cioè, c'è più la cultura della lettura rispetto a noi, che quindi rendono praticamente in Italia l'opera o le potenziali nascite, le nuove opere, praticamente quasi inutili, insomma. Marco, ma in realtà, guarda Simone, io su questo non sono d'accordo, perché in Italia non c'è la cultura della lettura, ma c'è moltissimo la cultura del gioco, e io conosco, mi sono passati sotto gli occhi in questi anni di Darkies, centinaia di ragazzi, di giovanissimi, che si sono avvicinati, appassionati a questo genere metaletterario dell'interactive fiction dopo averlo scoperto quasi per caso. Gente che cercava giochi di vampiri trovava Darkies senza neanche sapere come si giocasse, e poi nel giro di qualche settimana ha scaricato, se non decine, comunque molti altri giochi simili, diventando un cultore del genere. Quindi non è detto che un caposaldo del vintage, una cosa anacronistica come le avventure testuali, non possano avere oggi un bel successo di pubblico, sia pure su internet, fuori dai mercati commerciali. Secondo me va un po' riconsiderato il posizionamento di questo genere. Ok, va bene, no, questo ci può anche stare. Ma Alex, tu, e poi riprendiamo il filone, perché forse stiamo facendo varie digressioni, però insomma era anche un po' curioso magari approfondire, soprattutto quando si ha l'opportunità di avere un ospite in studio. Alex, tu le avventure testuali le giocavi? Cioè, nel senso, c'hai, che tipo di rapporto c'avevi? Perché me lo sono sempre chiesto, ma non te l'ho mai chiesto. Interessante che tu lo faccia in trasmissione, quando l'unica cosa che ti posso rispondere è no. No, vabbè, ci sta, non è che, cioè, come noi abbiamo fatto puntate su Nintendo, io non ho mai acceso, non ho mai giocato a Super Mario in vita mia, quindi, cioè, ma soprattutto non, è che siamo, non hai mai giocato a Metroid. Esatto, ma soprattutto non ho mai giocato a Metroid e Marrone. No, Metroid, ma con la finale Marrone di questo, insomma, ovviamente mi punirà. Allora, Roberto, riprendiamo un attimo le redini. Diciamo che io, dimmi, scusami. No, dicevo, abbiamo comunque fatto una piccola spolverata su quelle che sono le, magari le caratteristiche, le peculiarità di Infocom, anche se poi, come abbiamo detto, invece è una bella puntata Infocom nella sua evoluzione dalla nascita fino alle avventure, quelle anche illustrate, insomma, sarebbe bello farle proprio per un certo tipo di logica che metanarrativa che insomma questa software house ha portato nel mondo dei videogiochi. Ritorniamo un attimo a Zork, da dove nasce l'idea, le visioni e quello che poi ovviamente sono stati i discorsi di produzione. Parlare di Zork, penso che, appunto, come puoi immaginare, non è così facile, nel senso che è un sinonimo proprio di avventura testuale, quindi stiamo toccando quello che, nonostante qualcuno può non essere d'accordo, è un vero e proprio must, tant'è vero che spesso viene citato fra i giochi più influenti nella storia videoludica. Se pensiamo che stiamo parlando di un gioco che è del 1980, come hai ricordato tu nell'introduzione, è appunto un gioco che ha la sua età alle spalle e la si sente. La nascita di questo titolo, peraltro, è abbastanza interessante, perché è il primo di una trilogia di titoli, tutti strettamente collegati fra di loro, e probabilmente l'idea iniziale del gioco era già ben definita dalla sua prima uscita, e nonostante questo l'avventuriero non riesce a cogliere questo senso di necessità, o meglio, scusatemi, non riesce a cogliere fin dall'inizio il fatto che purtroppo o per fortuna si troverà a vivere un'avventura che è spezzata in più parti, quindi dovrà attendere l'uscita una all'altra. Questo perché all'interno di ogni singolo episodio la narrativa e il contesto è ben definito. Sì, ma diciamo anche il perché è stato diviso in episodi. Vai, venito tu, tranquillo. Anche se poi dopo, nel senso, anche se poi il modo in cui è stato suddiviso era anche coerente, no? Se non sbaglio, Marco, credo che l'idea generale era un po' troppo ampia rispetto alle potenzialità dell'hardware di allora, no? Sì, la cosa più interessante in realtà, secondo me, si può leggere su Wikipedia, cioè perché Zork si chiama Zork, una parola che non vuole dire niente, che non ha alcun senso, e Wikipedia ci racconta che Zork in quegli anni era il nome che i programmatori davano ai programmi che non avevano ancora terminato, quindi Zork prima di diventare un prodotto finito veniva chiamato così, ma il nome a quanto pare piacque talmente tanto che divenne quello definitivo, nonostante inizialmente si fosse pensato di chiamarlo Dungeon, sotterraneo, perché già all'epoca c'era un altro gioco che si chiamava Adventure, avventura, e quindi si pensava fosse più adatto. L'idea della trilogia era nata soprattutto per un motivo legato alla scarsa capacità di memoria che avevano gli home computer rispetto al mainframe su cui era nato al MIT, alla università MIT, il primo Zork, che era talmente vasto che per farlo stare in versioni commerciabili ne furono fatti tre. E chi ha potuto vedere anche solo brevemente come me il Dungeon originale vede però che in Zork sono presenti molti più elementi scenografici, cioè la trilogia rispetto all'originale è stata molto arricchita. Purtroppo secondo me Zork 2 e Zork 3 sono veramente troppo difficili, addirittura in Zork 2 c'è un puzzle legato al gioco americano del baseball che è impossibile da risolvere se uno non è veramente un fanatico di baseball, non conosce bene il campo di gioco, come sono chiamate le sue varie parti eccetera, quindi quello che è diventato famoso negli anni è il primo Zork perché era anche il più accessibile. Sì, peraltro anche il fatto che appunto il nome Zork 1 è stato un nome successivo quando sono usciti poi gli altri due, in quanto inizialmente era semplicemente Zork il grande impero sotterraneo, che poi richiama appunto quello che sarà quello che aspetterà il giocatore. E invece dopo le uscite dell'episodio 2 e 3 è stato rinominato in Zork 1, se vogliamo, quindi anche questo era un'aggiunta successiva. E poi una cosa interessante è che in Zork 2, per esempio, il giocatore per la maggior parte della storia si confronta con questo Wizard of Robots, un mago impazzito che lo perseguita con i suoi incantesimi, non vuole fargli rubare tra virgolette i tesori del sotterraneo, mentre nel terzo non ci sono più tesori da collezionare ma c'è una prova di intelligenza da superare per essere ammessi nel circolo dei Dungeon Master, quelli, come dire, i padroni del sotterraneo. Cambia un po' lo schema del gioco, non ci sono più oggetti da collezionare ma solo da utilizzare per raggiungere certe locazioni, quindi è una trilogia che si distingue nelle sue parti abbastanza chiaramente. Ecco, questo è probabilmente, come dicevo, cioè, probabilmente detto in maniera in italiano quello che cercavo di dire all'inizio, nel senso che appunto nonostante ci sia un filo che conduce il giocatore al primo e terzo episodio, i singoli episodi hanno comunque una consistenza anche da soli, possono essere tranquillamente giocabili, sebbene l'underground che si forma, tutto il contesto narrativo che si crea permette forse di giocare in maniera più agevole gli episodi successivi, che presi da soli appunto risultano molto difficili, al di là anche poi degli enigmi. Quello del baseball me lo ricordavo perché peraltro mi era stato raccontato in un'altra occasione, adesso non mi ricordo bene, e mi si diceva appunto che era uno dei motivi, questo e altri enigmi simili, che costrinsero, o poi fecero anche la fortuna di Inficom, nelle famose guide che poi pubblicava insieme ai giochi, nel senso con i vari indizi, con le soluzioni, con tutto quello che era possibile per andare avanti nel gioco. Diciamo che se era un metodo commerciale anche intelligente. Proponevo il gioco e a lato ti proponevo anche quella che era la possibile soluzione per agevolarti un po' nel tuo giocare, questo sicuramente. Poi non so se sempre su Zork, non so se lo sapete, ma c'erano anche due versioni particolari, una tedesca che però alla fine non fu mai rilasciata, e addirittura una versione giapponese. Questo sarei stato curioso di vedere il parser in versione ideogrammi. Questo sì, saremmo stati curiosi anche noi, anche se poi in realtà te la potevi tenere anche per per le curiosità, insomma. No, questo, sulle curiosità c'è ben altro, come c'è puoi ben immaginare altro, no, è chiaro, è chiaro. Senti, facciamo una cosa, facciamo una breve pausa a questo punto e poi dopo rientriamo, però entriamo a piedi uniti, perché mi potrebbe scrivere Mario da Velletri e dire: sì, ho capito, io ho 22 anni, ho sempre sentito parlare di sto Zork, ma sto Zork di che parla? E quindi giustamente c'è gente che ne vuole sapere. Quindi Roberto, facciamo questo piccolo break, giusto? Lo presenti con il brano e poi entriamo, insomma, nella seconda parte del Barnett College. Il brano che presentiamo oggi è un brano particolare, nel senso che Zork, sebbene abbia vissuto appunto una parentesi di gloria nel mondo delle avventure testuali, ha avuto anche degli episodi o delle appendici nel mondo delle avventure grafiche. Avventure grafiche che potete immaginare abbiano anche a corredo tutto quello che è maggiormente di contorno in quello che è un'avventura, quindi la colonna sonora, la grafica appunto e quant'altro. Ecco, la colonna sonora del brano che vogliamo presentarvi oggi, di Zork Nemesis, probabilmente uno dei migliori capitoli arrivati a livello grafico sui computer, e il brano semplicemente si intitola I Quattro Alchimisti. È un brano particolare, visto che ricalca un po' le atmosfere che solite che si potrebbe immaginare quando si ascolta o si vive Zork, e quindi ci tengo che potete sentirlo con noi. Ecco, buon ascolto. Perfetto, entriamo nella seconda parte del Barnett College e iniziamo, come dicevamo prima di lasciarci, insomma, prima della pausa, iniziamo, insomma, a parlare di quello che parla questo Zork. E Zork è chiaramente il primo con tutte le sue discendenze. Penso che faremo anche poi accenni a quando poi Zork ha lasciato il testo e ha abbracciato il full motion video, addirittura, cioè da un eccesso all'altro. E Roberto, in questo momento triste personalmente, che per motivi in cui non saprete, spero, mai il motivo non lo sanno loro il motivo per cui sei triste, quindi Perfetto, rimarrà un segreto. Bertoni si è fatto la cacca addosso, un altro gene che mancava, ragazzi. Esatto, perché voleva emulare è il famoso gene del tappo di sughero. Voleva emulare Pietro, il buon Pietro di cui siamo tutti zii oramai. Poromo che si è appena svegliato urlando. Comunque è giusto introdurci un attimo in quella che è la trama di Zork, appunto. E Zork è la classica avventura, nel senso che mi pone appunto nei panni di una persona senza macchie, senza paura, anche se questa cosa non è effettivamente vera, che si trova a vivere un'avventura più grande di lui. Penso che una delle cose più mitiche, più mitologiche, più strepitose è l'inizio di Zork, che vorrei leggervi nonostante la mia pronuncia in questo momento possa essere veramente pessima, perché penso che sia uno degli incipit più famosi della storia videoludica. Praticamente vi trovate all'esterno di una casa senza sapere il perché e il per come, e vedete di fronte a voi appunto una cassetta di lettere, una piccola cassetta di lettere e una casa bianca. Tutto qua. Questo è l'inizio di quella che probabilmente sarà una fantastica avventura che vi porterà nei sotterranei del mondo di Zork. Un'avventura che non mancherà di stupirvi, non mancherà di coinvolgermi. Ma la domanda che probabilmente sta sorgendo a questo punto è, sperando che appunto mi venga magari un ictus e mi possa fermare all'improvviso lasciando un po' più di ritmo questo podcast, è ok, scendete questi sotterranei, ma qual è il vostro compito? Ecco, il vostro compito è diventare Master Adventurer, probabilmente il maestro dell'avventura, se vogliamo dare una traduzione molto letterale, molto schifosa. Questo è un po' uno scopo particolare che vi richiede di, scusatevi, diciamo lo scopo appunto è quello di diventare il maestro dell'avventura. Come la maggior parte dei giochi Infocom, avete a fianco anche un punteggio da raggiungere, il cui il massimo è 350 punti. Chiaramente ad ogni azione corretta riceverete un adeguato punteggio che in qualche modo può rappresentare sia la difficoltà dell'avventura nel procedere, sia anche darvi un polso di situazione di come stanno svolgendo le avventure. Considerate che all'interno delle vostre avventure incontrerete anche dei mostri particolari, il famoso troll che dà il titolo anche al nostro episodio, dei ciclopi, ma sicuramente quello che è il mostro mitologico per eccellenza di tutto il mondo di Zork, che è il Grue. Non so se lo conoscete, se ne siete spaventati, se Marco sicuramente sa di cosa sto parlando, Simone penso che ne stia allevando uno in giardino. Esatto. Ma più Marco è titolato comunque. Sì, il Grue, tra l'altro, che è stato citato anche in videoclip musicali, film come Pitch Black con Vin Diesel, nel quale i mostri erano praticamente delle grue sotto mentite spoglie, un mostro che vive nel buio e quindi si manifesta quando il giocatore rimane sottoterra senza una adeguata fonte di luce. È un modo più originale di far morire il giocatore anziché farlo semplicemente inciampare, cadere o come in Adventureland cadere in un pozzo senza fondo. E sono creature talmente affascinanti che in un'altra avventura, Whispbringer, la Infocom ne ha addirittura descritto una casetta sotterranea con mamma grue che mette la copertina sul bambino, il grue bambino, perché non prenda freddo, e il giocatore deve riuscire a rubare quella coperta che gli serve per un'altra cosa senza che il bambino grue si svegli e lo mangi o che la madre lo scopra. Quindi situazioni paradossali scaturite dal successo di questo mero espediente narrativo. Comunque, tornando un attimo, tirando il discorso del Grue e di questo fantastico essere che mi aspetta una volta che spegnerò la luce, e per agganciare un attimo il discorso del punteggio, diciamo che lo scopo fondamentale, appunto, per che dicevo prima, di diventare il maestro degli avventurieri, il maestro dell'avventura, chiamate come volete, di collezionare i 20 tesori di Zork e praticamente portarli appunto nella bacheca dei trofei. Quindi ogni trofeo ha un particolare enigma che lo aspetta, che renderà la vita difficile al giocatore, però permette in questo modo di avere anche una linearità più progressiva, nel senso il giocatore è aiutato nel capire dove sta andando o dove sta parando. Questo è importantissimo perché di contro abbiamo un labirinto che è una cosa pazzesca, nel senso, appunto, per citare un po' la difficoltà di cui parlava prima anche Marco, il labirinto di Zork è penso una delle sfide più importanti che un videogiocatore abbia mai dovuto in qualche modo sopportare, nonostante comunque stiamo parlando di qualcosa di molto divertente per chi è appassionato. Considerate, e ricordo anche a cosa sembra ridondante, stiamo parlando comunque di tutto un mondo descritto solo attraverso delle parole, quindi è sicuramente la difficoltà più importante, ma forse anche la forza che forse anche il suo grande vantaggio, no Marco? Cioè, esatto, poi alla fine come ha detto anche Bonaventura, più di un'occasione parliamo sempre della era Colombini, non ricordo bene, parliamo sempre dell'utilizzo della scheda grafica più potente del mondo, no? che è la nostra immaginazione, che ha aiutato, insomma, ecco. Io purtroppo quando ero ragazzino mi sono dovuto divincolare tra le avventure testuali proprio di Bonaventura, perché purtroppo l'inglese lo sapevo e non lo sapevo, e quindi conseguentemente mi sono dilettato con quelle, no? Però ecco, chiaramente il fascino stava proprio lì. E poi c'era anche il fascino macchina, testo, interazione. C'era tutta una serie di meccanismi che rendevano poi le avventure testuali, e nello specifico ovviamente Zork, ancora più allettante per i ragazzi dell'epoca. Ma l'elemento che colpisce di più dal punto di vista creativo è che questi testi così evocativi, così intriganti, sono stati scritti da degli studenti di ingegneria, credo elettronica, ragazzini neppure ventenni, che per divertimento scrivevano videogame testuali prendendo spunto magari dalle partite fatte a Dungeons & Dragons, quindi erano tutt'altro che autori o scrittori professionisti, eppure con la loro voglia di fare, la fantasia, sono riusciti a creare un'opera letteraria più famosa di tanti romanzi bestseller. E poi una cosa che non va assolutamente sottovalutata è che, nonostante Zork sia ambientato in gran parte sottoterra, questo grande impero sotterraneo offre una vastità incredibile di scenari, perché ci sono miniere, dighe, cunicoli, abissi, sale degli specchi, c'è questa camera dell'eco in cui non si capisce mai da che parte si può andare, c'è il labirinto sorvegliato da questo ciclope che può essere battuto solo con la materia grigia, c'è una grata che permette di tornare nella foresta in cui si comincia l'esplorazione dell'avventura, c'è addirittura un arcobaleno che si può attraversare per prendere un altro tesoro, ma la cosa forse più peculiare è che uno dei tesori da collezionare si trova nell'aldilà, in cui apparentemente si può andare solo morendo, anche se c'è un espediente per arrivarci da vivi tramite una candela, un libro, eccetera. Ok, allora sì, mi introduco un attimo, giusto per quello che dici giustamente anche Marco, mi ha ricordato in mente un'altra cosa, nel senso che appunto come la maggior parte dei giochi si fa la gara a chi finisce il gioco nel numero di mosse minori possibili, ecco, sono riuscito a dirlo in italiano senza impappinarmi eccessivamente. Ecco, è possibile concludere Zork in 223 mosse, 228 se vogliamo essere proprio fini nella questione, però sfruttando anche quelli che sono dei sorte di bug interni, quello che è il gioco, quindi potete ben capire che anche nonostante la perfezione che si è raggiunto non è esente anche di questi trucchetti che magari più noti i giocatori moderni, ecco. Ok, allora abbiamo parlato di Zork, cioè soprattutto del primo. Noi siamo un avventuriero, entriamo in questo mondo sotterraneo, ci troviamo di fronte alla casa con la cassetta della posta, poi da lì ovviamente tra il primo capitolo e i vari capitoli si dipanerà questa storia che racconta in parte anche di questo impero sotterraneo, quindi di questo mondo particolare, che poi tra l'altro ho iniziato a godere ancora di più proprio nella traduzione anche del manuale di Zork che stanno facendo i ragazzi che stanno traducendo l'intero gioco di Zork, cioè il primo capitolo di Zork, perché poi c'è tutta una mitologia dietro che è veramente affascinante. Poi metteremo anche link sulle note dell'episodio, perché chiaramente è un qualcosa che merita, no? E poi se dovete considerare, veramente stiamo parlando degli anni 80 e stiamo parlando dei computer con poche manciate di K, insomma, quindi il fatto che c'erano tutti questi ausili che aiutavano in qualche maniera a costruire la mitologia e la fantasia che stava intorno a questi giochi, insomma, vi rendete ancora più conto di quanto fascino, di quanta bellezza c'era all'interno di questi giochi. Ma questi giochi chiaramente, oltre ad essere oltre ad avere una storia, avevano un meccanismo, e questo meccanismo chiaramente era il motore che faceva funzionare il tutto, Alex, e qui ti chiamiamo in causa perché tu chiaramente da informatico e da giornalista informatico, insomma, sei quello tecnicamente più adeguato magari a spiegarci come funzionava il meccanismo della Infocom, nello specifico di Zork. Beh, allora, prima di tutto credo che oggi la persona più adatta sia il nostro ospite, perché lui le ha scritte le avventure. Cercherò di fare un discorso, diciamo, introduttivo da buon giornalista che non sa di quello che parla, ma ne parla ovviamente ugualmente. Allora, avventura testuale, abbiamo detto che la scheda grafica è quella che abbiamo nella nostra testa, c'è la nostra immaginazione, però si trattava di un programma, per cui come interagivamo con il programma? Nel senso, il programma ci restituiva in output informazioni testuali su quello che possedevamo, quello che vedevamo, quello che potevamo fare, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Ma come possiamo dire al programma cosa fare? In questo caso la cosa più importante, uno dei fattori di grande forza di Infocom era dato dal parser, cioè praticamente quella parte del programma che accettava in input le digitazioni della tastiera e rispondeva a questo. Non pensate che siamo tanto distanti dal parser oggi, che lavoriamo con videogiochi che girano, che sono, non so, sulla PlayStation 4 o sull'Xbox Antani, perché abbiamo a che fare col parser tutti i giorni. Lo sapete? Ve lo faccio vedere. Nuovo promemoria. D'accordo, dimmi semplicemente cosa vuoi che ti ricordi. Dopo domani sera registro Telefilm Mania. Molto bene, ti ricorderò di dopo domani sera registro Telefilm. Quando devo ricordarti il promemoria? Vabbè, insomma, questo è una struttura ben nuova, però stiamo parlando delle azioni che svolge un parser sempre: l'analisi lessicale e l'analisi sintattica. L'analisi lessicale è fondamentalmente quella in cui si prende la stringa di input, in questo caso la stringa di input è la mia voce, e la si suddivide in oggetti chiamati token. Praticamente, se io chiedo registra un nuovo promemoria, i token sono registra un nuovo e promemoria. Una volta che abbiamo questi token, l'analisi sintattica cerca di capire che cosa fare con questi token, cioè praticamente di costruire un albero sintattico a cui reagire con delle insomma, come se fossero quelle delle istruzioni, e reagire con delle azioni. La caratteristica fondamentale della nostra simpaticissima Z-Machine era data dal fatto che aveva un parser molto molto potente, basato su una struttura dati estremamente complessa ed estremamente ricca. Diciamo che è una versione molto ante litteram di una struttura XML. Infatti gli oggetti potevano avere tantissimi attributi che ne davano la descrizione fisica, la descrizione di come si poteva essere utilizzato, se poteva essere preso o non preso. Lo stesso dicasi per gli ambienti: c'era la descrizione, le azioni che potevano essere compiute in una maniera molto molto molto elaborata. Ma la cosa importante di questa Z-Machine, che era l'elaboratore del parser, era data dal fatto che i giochi venivano essenzialmente compilati in un formato che viene chiamato Z, appunto Z1, Z2, Z3 a seconda della versione della Z-Machine, e questo file era un file che veniva poi interpretato da un interprete, che praticamente è il motore di runtime che riusciva a eseguire il gioco. Per cui, per trasferire un gioco da una macchina all'altra, che ne so, da Commodore 64 fino a su qualsiasi macchina è stato programmato una avventura della Infocom, bastava essenzialmente riscrivere il parser, cioè riscrivere la parte di interprete, perché poi il resto era essenzialmente innestato nel file di gioco. Una cosa interessante è data dal fatto che il parser era molto ricco, nel senso consentiva di utilizzare diverse costruzioni sintattiche della frase, nel senso uno poteva solo scrivere nord oppure go north, I want to go north, c'era praticamente una grande complessità. Si potevano essere utilizzati anche gli articoli tipo the thing invece soltanto di thing, cosa che allora non era molto comune, soprattutto per quanto concerne il fatto che la memoria era molto molto limitata. E la cosa interessante interessante è che le ultime versioni del formato Z, della Z Machine, consentivano di inserire all'interno di questo grande file, che appunto ricorda molto un XML, anche dei file grafici e dei file sonori della file della musica. Praticamente la struttura era così aperta che aggiungere oggetti, attributi, caratteristiche al mondo di gioco era molto semplice e di conseguenza molto, molto facile da far evolvere, motivo per cui le ultime avventure di Infocom avevano anche oggetti, erano anche strutture audiovisive. Sai che cosa mi hai fatto pensare all'inizio quando hai fatto quella tua rappresentazione, che poi in realtà è molto calzante, perché è una metafora molto esemplificativa di quello che poi ovviamente volevi dire spiegando il Pulsar, che proprio l'altro giorno in Calavera Caffè mi era venuto in mente, dico, sarebbe figo brevettare un'avventura testuale parlata, cioè per i non vedenti ad esempio. Quindi riuscire a costruire un'interfaccia vocale che sia in grado di poter essere adeguata, coerente e funzionante soprattutto. E poi ovviamente un sintetizzatore di buona qualità che ovviamente in qualche maniera spiega e legge a testo quello che ovviamente la persona non vedente ovviamente si troverebbe a dover affrontare. Non sarebbe male come tipo di concezione. Oramai lo abbiamo detto, probabilmente ci ruberanno il brevetto e noi rimarremo poveri per sempre. Marco, guarda, scusami, approfitto, poi dopo lo dico adesso, poi magari sono col timore di essere smentito fra 6 giorni quando sentirete in diretta sui canali di Italian Podcast Network e Justin Tech il commento al keynote di Apple con iOS 7. È probabile pensare che Siri, le API di Siri vengono aperte agli sviluppatori, per cui gli sviluppatori potrebbero usufruire del motore di parsing di Siri. Sì, però è vero pure che Siri è comunque contestualizzata e limitata a un suo ambiente, quindi io parlavo proprio in generale, no? Nel senso, per parlare di Siri, Google fa la stessa cosa con col suo motore. Sì, se lo aprono anche loro, l'interfaccia vocale di Google è ben lontano da avere un minimo di somiglianza. Allora, insomma, è vero, però considera che siamo ancora agli albori da questa parte, cioè ci abbiamo messo anni ad arrivare al mouse, poi dal mouse ad arrivare all'interfaccia touch ci abbiamo messo 20 anni, e poi dopo altri soltanto 6 anni di interfaccia touch hanno cominciato a sviluppare interfaccia vocale, che dal mio punto di vista è ancora meno invasiva di quella touch, che è ancora meno invasiva di quella mouse, è ancora meno invasiva di quella testuale. Cioè fondamentalmente diventa sempre più naturale rivolgerci a questi strumenti, non dico con un linguaggio naturale, però anche sì, anche senza guardarle. Cioè ultimamente non è proprio così, ma la tendenza è fra 5, 10, 15 anni è quella che ci rivolgeremo ai computer trattandoli un po' come ci trattiamo le persone, come cioè brutto testa di cazzo. esatto, ripeto, quello è il punto in cui vogliono arrivare, e usufruiranno dei dati che noi inseriamo in queste transazioni vocali perché per venderci come prodotto, un po' come fa adesso Google guardandoci la mail. Apple probabilmente lo farà, quello dico, quello nego, cioè sentendo quello di cui parliamo, per cui diciamo cacchio, oggi mi piacerebbe mangiarmi una mela e stasera mi arriva una mail con la pubblicità delle mele, non lo so, per dirvi, mi è venuto in mente mela perché parlavo di Apple. Probabilmente se dici cazzo stasera ci vado di scopare mi arriveranno 18 pubblicità di escort. Quello però se dici coperte, chiaramente. E infine un attimo anche per dire una cosa che potrebbe aiutare anche Marco nelle future domande, o comunque per trattare un po' il discorso di Z Machine, che una delle, penso, peculiarità più importanti di tutto il motore è il fatto che è un motore che risulta anche proprio portabile, tanto è vero che non ci sono praticamente sistemi su cui non è possibile giocare ai giochi dell'Infocom, nonostante stiamo parlando di giochi di 30-35 anni fa, e questo secondo me è una cosa eccezionale, soprattutto se pensiamo a un mondo, quello delle avventure testuali, che spesso magari sembra così lontano dai nostri standard, e invece è sempre portata di mano. È a portata di mano, ma addirittura, nel senso, non so se lo sapete, ma anche per il Kindle di Amazon permette di giocare a alcune avventure testuali, giusto per dare un'idea di quello che potrebbe essere la portabilità di cui accennavo. E penso che Marco su questo posso dirci anche la sua? Allora, posso, mi inserisco un attimo in maniera per riprendere anche le fila. Allora, a Marco gli diamo due cose prima di tutto. Innanzitutto, se ha qualcosa da aggiungere rispetto a questo che è questa spiegazione che abbiamo dato rispetto al parser. Poi ovviamente ci sarebbe da spiegare appunto questo fatto della Z Machine, di come poi ovviamente questi tipi di linguaggi poi vengono ancora emulati oggi e quindi resi universali, così come diceva Roberto Testè Aurora. Marco. Sì, guarda, una cosa interessante che ci riguarda da vicino, almeno come italiani, è che negli anni 80, quando le avventure erano un fenomeno commerciale, in Italia si scrivevano con una programmazione di tipo ricorsivo, quindi con i gotu oppure con dei cicli, con delle strutture estremamente codificate, in origine, come dire, ideate, percepite da Enrico Colombini, ma poi sviluppate anche da altri programmatori come per esempio Roberto Tabacco, mentre il guru, l'autore di riferimento del genere Bonaventura Di Bello, si affidava a un editor inglese, The Quill, che quindi metteva a disposizione una specie di framework già pronto. Scusa, ti interrompo, sì. Qui Roberto, tu dovresti intervenire. Bonaventura Di Bello, che abbiamo intervistato, e a detta sua, insomma, è quasi un'esclusiva la nostra intervista audio all'interno dei podcast nazionali. Quindi, insomma, è una cosa di cui dobbiamo vantarci. Roberto, vantatene. Il problema è che ci vantiamo ogni puntata di questa cosa, quindi alla fine di intero. Vabbè, quando si parla d'avventure testuali, noi lo dobbiamo sempre. Ma voi non rimarcare. Sapete che Bonaventura Di Bello si vanta di essere stato a archeologia videoludica. Allora è un vantaggio. Io poi Bonaventura oramai abbiamo avuto l'opportunità di incontrarci altre tre volte, quindi insomma c'è anche una simpatia, vanno vacanze insieme, una insomma, corrispondenza, cioè. No, nel senso che comunque è veramente una persona estremamente disponibile, al di là di tutto, ed è un appassionato vero, è uno di quelli che veramente fa i chilometri, prende il treno per venire a parlare, magari veramente, ecco, come quella volta che eravamo al Vigamus, magari non eravamo tantissimi, ma comunque lui ha speso il suo tempo, le sue energie per ritrovare anche magari persone con le quali lui interagisce con questa sua passione. Quindi questo bisogna riconoscerlo, veramente un appassionato vero, non è uno che dice ok, io sono riconosciuto per questa cosa e faccio fatica ad andare lì, no, lui proprio ci va proprio di cuore, quindi è una cosa giusto, Marco? Sì, poi credo che anche per lui quello sia quello di Zap, delle avventure di Explorer, di Epic, sia stato uno dei momenti più belli della sua vita. Non lo dico senza paura di essere smentito, anche se poi chiaramente la vita fa il suo corso, porta altri impegni, altre sfide, ma essere stato protagonista dell'età dell'oro dei computer in Italia credo che rimanga una soddisfazione impagabile per uno appassionato come lui di computer, che da ragazzino si è trovato a dirigere 3-4 riviste spesso in contemporanea. Sì, sì, no, ma nell'era dei pionieri lui ha attraversato in Italia una fase storica che lui, come tanti altri, insomma, che abbiamo avuto anche modo, insomma, di conoscere, con i quali abbiamo potuto anche interagire, veramente il fascino e l'ammirazione sta proprio in questo, nel fatto che sono trovate con la competenza giusta, al momento giusto, nella situazione giusta, e quindi hanno potuto poi veramente attraversare questo momento storico. Roberto. Sì, penso che appunto il fatto di aver avuto la fortuna di parlare con la Bonaventura è stato importante anche per cogliere un po' il discorso pionieristico che Marco se ne sta accennando, ovvero proprio le difficoltà di affrontare il discorso della scrittura avventura testuale, quindi tutti, passatemi il termine, gli accrocchi che gli scrittori e creatori devono affrontare, e il fatto che Infocom abbia voluto in qualche modo inserire un linguaggio standardizzato per potesse permettere uno sviluppo magari da un certo punto di vista più facile, da altro punto di vista invece più complesso per il giocatore che ha di fronte un parser evoluto, un mondo evoluto, poter rispondere un po' a quelle che le sue esigenze di un mondo vero e reale. Ma infatti la cosa curiosa di cui accennavo prima è che dopo questi primi esempi pionieristici di programmazione ricorsiva, soprattutto in Italia, ma credo anche in altre parti del mondo, a partire dai primi anni 90, Graham Nelson, un programmatore indipendente, ispirandosi proprio alla Z Machine della Infocom, ha creato un linguaggio di programmazione chiamato Inform, dedicato specificamente ai giochi testuali e orientato agli oggetti, quindi una cosa completamente diversa, ambiziosa, innovativa, che ha anche cambiato l'approccio di noi autori alla programmazione. Cioè, anziché fare cicli di loop, do, while, if, then, eccetera, siamo passati a mettere oggetti dentro altri oggetti dentro altri oggetti. Un cambiamento radicale che in effetti ha permesso di sviluppare giochi estremamente complessi. Perfetto, allora continuiamo e riprendiamo il cammino su quello che è il discorso di Zork e concludiamo, diciamo, questa nostra navigazione verso Zork con Roberto che ci accenna delle curiosità. Poi ovviamente nella parte finale approfitteremo, insomma, della disponibilità di Marco che ci ha fatto il piacere di dedicare il suo tempo alla nostra trasmissione proprio per ovviamente parlare anche un po' del suo. Ma naturalmente anch'io come Bonaventura mi vanterò di essere stato ospite Archeologia Videoludica. Grande. Allora, Roberto, vai, poi dopo concludiamo, insomma, in bellezza con Marco. Sì, magari chiedendogli anche la famosa frase registrata: anche io ascolto Archeologia Videoludica. Certo, certo. Che poi passeremo in loop partendo da tutti i programmi IPN. Le curiosità sono simpatiche soprattutto perché denotano, secondo me, il fatto che Zork sia proprio entrato nell'immaginario comune. Parto con quello che è un po' un'informazione che c'è da Wikipedia, che è sempre utile in questo caso, dove Zork viene citato fra i 10 videogiochi più importanti di sempre da tale Henry Lowood della Stanford University. Consideriamo che nella sua disamina ci sono giochi che partono dal 1962 con Space War per arrivare a SWOS del 1994, potete capire che comunque è un titolo sicuramente di un certo rilievo. Poi la cosa interessante è che Zork viene anche citato in Big Bang Theory. Non so se vi ricordate l'episodio in cui il nostro mitico cerca di in qualche modo di affrontare il mitico chi? Vogliamo il nome, vediamo se lo sai. Sheldon Cooper. Bravo, Sheldon Cooper. Grande. Ha avuto il tempo di aprire Wikipedia all'ultimo secondo. No, ma ricordo che la puntata è benissimo, che lui continua a scrivere: uccidi troll con la spada. Cosa faccio? Torno indietro. Nel senso, era molto simpatico. Me la ricordo anche io. Una scelta molto simpatica, secondo me, che ben denota in un telefilm, diciamo, per nerd, il fatto che comunque ha una certa importanza anche, come dicevo prima, nell'immaginario. Vabbè, ma come giustamente hai detto tu scrivendo la scaletta, è veramente uno dei capi saldi, insomma, della storia del videogioco, quindi al di là dell'averlo giocato o no, non puoi non conoscerlo, quantomeno nominalmente. Poi voglio snocciolare qualche numero, giusto per dare un'idea della vastità del vocabolario. Allora, dovete sapere che Zork ha avuto differenti versioni. L'ultima è uscita nell'87-88 ed è la dodicesima, se non ricordo male. Aspetta, controllo. Sì, è la dodicesima. E il gioco supporta 110 stanze e 60 oggetti diversi. E il vocabolario è formato da 697 parole, che magari possono sembrare poche così di primo acchito, ma come Marco può testimoniare, comunque denotano una certa ricchezza, soprattutto se contestualizzata con il famoso parser che dicevamo prima, che appunto permette un approccio più intelligente. Altre curiosità che mi sento che valga bene citare: il famoso gioco Call of Duty Black Ops è possibile addirittura giocare a Zork, nel senso che i programmatori hanno inserito l'intero gioco in un terminale all'inizio dell'avventura. Quindi, se qualcuno vuole recuperarsi Call of Duty per giocare a Zork, può sicuramente farsi del male in questo modo. Se non sbaglio, c'era qualcosa del genere anche in un altro videogioco. Magari non era Zork, però Day of Tentacle c'era dentro. E ok, c'era Maniac Mansion. Questo Mansion. Sì. No, ma io parlavo sempre di giochi testuali. C'era già qualcun altro aveva fatto un giochillo del genere. Però adesso purtroppo sotto i piedi la mia veneranda quarantennale età purtroppo non mi permette, insomma, di essere coerente. Tu non sei quarantenne, sei quaruntenne. Non lo so, sono zorchenne io. Vabbè, questa è una stronzata, andiamo avanti. Zorco 2! Ecco, giusto perché amo Alex e ritengo che sia un personaggio che valga la pena valorizzare, sarà contento di sapere che nell'88 è stata prodotta anche un'avventura diversa chiamata Pork. Che non so, tipo parodia dell'originale. Ma che lo stai pure a provocare? Scusa. Alla sei scemo. Va bene, da persona sono diventato personaggio. Ma e senti, ci può ma anche stare. Ma porca, poi c'è avuto anche un seguito. Il secondo capitolo. Va bene, dai Roberto. Lo dico io, lo dici. No, te. Lascia stare. Ma secondo me ci sarebbe bene un buon sintetizzato che in qualche modo possa dare il giusto peso a questa bellissima affermazione. It's in the game. Perfetto. E poi altre curiosità per chiudere: sono stati fatti anche dei romanzi tratti da Zork e delle sue avventure. Quindi, se volete leggere qualcosa di veramente interessante, penso possa essere una buona occasione. E infine il discorso dei diritti: non è una curiosità, ma più che altro è un accenno che mi piacerebbe fare. Nel senso che in teoria i diritti di Infocom sono in mano Activision, ma non è così chiaro chi e come può aggiustarsi, insomma, alla ripubblicazione di questi titoli, nonostante appunto facciano parte della storia videoludica. Se volete provare a giocare, se non ricordo male, sono abbastanza sicuro di questa cosa, su GOG.com è possibile acquistare l'intero pacchetto delle avventure di Zork. Quindi, chiaramente, facendovi del male, potete aspettare la nostra traduzione per poi arrivare a giocare le famose avventure nell'impero sotterraneo. Perfetto, perfetto, perfetto. Sono finite, suppongo, le curiosità. Quindi, prima di andare al Melee Island, dove andiamo ovviamente a salutare e leggere la posta dei nostri dei nostri ascoltatori, Roberto, Marco è prevalentemente un ospite che tu ci hai introdotto e ci hai presentato, del quale noi ovviamente ti siamo orgogliosi, ma devi fare anche gli onori di casa. A questo punto intervistalo, torchialo per la festa. Intervista doppia, ta-ta-ta-ta-tun. No, secondo me è importante che Marco si presenti da solo, o meglio, so che mi ha anticipato, non so se vuole parlarne lui direttamente, che è in lavorazione la sua prossima avventura testuale. Prima di parlarci, spiegandoci anche magari con cosa la sta programmando e, esatto, e come bravissimo, la potremo giocare, in che piattaforme potremo giocarla, se magari poi andrà a finire su web. Ricordati Marco che io ho un Mac, quindi non mi pare arrabbiare. Guardate, approfitto anche per introdurre un discorso importante al di là di Zork. Tutte le avventure testuali moderne degli ultimi 15 anni sono compilate in un formato multipiattaforma che, appunto, ispirandosi alla Z Machine della Infocom, permette di giocare su quasi ogni tipo di dispositivo fisso e mobile, compresi tablet, smartphone, ma anche Linux, PSD, quindi sistemi operativi alternativi, perfettamente senza alcun tipo di rallentamento o di problema. Quindi se tu hai l'iPhone, l'iPad o il Samsung Galaxy, puoi scaricare e giocare a qualunque avventura testuale moderna installando uno degli interpreti disponibili gratuitamente come Gargoyle, Froz, Zoom, quindi costo zero, difficoltà auspicabilmente zero. Detto questo, volevo ancora citare su Zork che di questa avventura si parla anche riccamente in un'altra famosa sitcom, o almeno serial moderna, cioè Chuck, ambientata in Chuck, questa università in cui imperversa un ragazzo che lavora sotto mentite spoglie per i servizi segreti. L'incontro del protagonista col suo migliore amico Price avviene proprio tramite Zork, perché Chuck rivela a Price di voler imparare il C, il linguaggio C, e diventare un programmatore per scrivere una nuova versione di Zork. L'altro gli dice: ma così non conquisterai mai ragazze, non diventerai mai popolare. E Chuck risponde dicendo: sì, lo so che è una cosa da sfigati, però a me piace così. Quindi questa passione di Zork che va al di là delle mode, delle opportunità, in un serial popolare quasi come Big Bang Theory. invece venendo a me, al colpevole, quello che contro tutto e contro tutti persevera 30 anni dopo Zork a scrivere giochi testuali, come quasi tutti io lavoro con Inform 6, il linguaggio di Graham Nelson. Primo, perché se uno ha almeno una infarinatura di C o di Java è molto facile da imparare. Secondo, perché ha questo formato multipiattaforma che in questi tempi in cui proliferano smartphone, tablet e ogni tipo di apparecchio, credo che sia assolutamente vincente come scelta, perché anche chi non gioca molto al computer se lo può scaricare, giocare sul treno, sull'autobus o magari in questo periodo, se finalmente uscirà il sole, alla spiaggia, al mare o in campagna. Quindi... Ma Inform 6 la versione originale o quella in italiano? No, no, Inform 6, come dire, localizzato in italiano grazie alle librerie del vostro concittadino romano Giovanni Riccardi, che ormai 10-11 anni fa si prese il disturbo in maniera totalmente gratuita di localizzare i file necessari a scrivere giochi in italiano. Giochi che in questi ultimi 15 anni hanno avuto alti e bassi come pubblico, ma che a volte hanno raggiunto picchi di download clamorosi, roba di 1000-2000 download alla settimana o comunque al mese, come capita adesso con Darkies, con giochi che hanno avuto, oltre che come dire, un impegno nella loro realizzazione, anche uno sforzo promozionale fatto proprio per diffondere questo tipo di opere. Poi devo dire che Google, grazie a Dio, ci dà una grossa mano. Quando uno cerca giochi di vampiri può uscire anche un'opera come Darkies, giochi di fantascienza, giochi horror, ci sono avventure italiane di tutti i generi, di tutti i tipi, basta cercarle. Molte volte uno trova questi giochi per caso e, come dicevo prima, se ne innamora e nel giro di un mese ne gioca anche 8 o 9, intestardendosi finché non riesce a finirli. Su Facebook ci sono 2-3 gruppi e pagine su cui si possono condividere le esperienze di gioco e che mi sembra siano sempre molto, molto frequentate, molto gettonate anche dalle nuove leve che sono teenager, che all'epoca appunto di Zork non erano neanche ancora nella mente di Dio, oltre che nati, presumo. Quindi è un genere, è un divertimento, come mi piace dire, che non ha età, senza limiti, senza confini. Non vedo perché tra 10, tra 20 anni non si dovrebbe ancora parlare di avventure testuali come facciamo noi stasera. Sì, se vuoi raccontarci un po' anche del tuo nuovo titolo, se puoi dirci qualcosa, qualche anticipazione, se puoi raccontarci, dovrebbe uscire a breve se non ricordo male, quello che si mette l'altra sera, se puoi dirci qualche anticipazione, questo sì. Sì, guarda, io proprio per il discorso che la gran parte del mio pubblico è composta da teenager, almeno studenti dell'università, delle scuole, ho fissato una ipotetica data di rilascio nel 21 giugno, quindi le vacanze sono iniziate, magari chi studia avrà molto più tempo libero per giocare. Come nei miei precedenti giochi ci sarà una sfida, quindi i primi 5 che finiranno il gioco senza chiedere aiuti avranno diritto a dei premi che metterò in palio e che saranno libri, altri giochi, cose comunque relative al mondo dell'informatica, perché mi piace anche dare un qualcosa, valorizzare l'impegno di chi si cimenta con questi giochi. Rispetto a Darkies, che era un'opera horror ambientata in un sotterraneo con un vampiro, con dei mostri, con dei trabocchetti, questo nuovo gioco avrà un'ambientazione metropolitana, moderna, quindi un ghetto di periferia. Sarà di genere mainstream, quindi non ci saranno elementi soprannaturali, e parlerà di una sorta di caccia al tesoro, un po' come nel sotterraneo di Zork, ma quello che ci sarà da cercare sarà qualcosa di molto particolare. Il protagonista sarà in qualche modo anche un po' autobiografico, perché sarà uno scapestrato giornalista di provincia a caccia di uno scoop per salvarsi il posto al giornale in cui lavora, quindi viene mandato un po' allo sbaraglio a cercare tracce di un fantomatico personaggio e dovrà riuscire a documentare l'esistenza di questo misterioso artista stradale, diciamo. Ecco, a questo punto diciamo che sicuramente daremo anche notizie sui nostri canali non appena questa avventura uscirà, sia su Games Italia che su Archeologia Videoludica. Poi proviamo anche a partecipare a questo contest, così dimostreremo la nostra sagacia, la nostra soprattutto esperienza, la nostra sagacia, e poi magari metteremo anche tutti i vari riferimenti sia per seguire Marco che la sua avventura già pubblicata e eventuali e future, insomma, sulle note dell'episodio del podcast. Ma guarda, io diciamolo, mi permetto ancora di dire che proprio nella puntata in cui era stato ospite Buonaventura Di Bello, addirittura il mio gioco Darkis era stato linkato nella pagina del podcast, cosa di cui mi sono vantato con molte ragazze in giro per le discoteche della Riviera. Andavo da loro dicendo: sai che Archeologia Videoludica ha linkato la mia avventura nel podcast di questo mese? E loro entusiaste mi cadevano ai piedi, quindi ai piedi, continuiamo questa collaborazione perché sono sicuro che mi gioverà. No, vabbè, più che altro perché comunque noi come facciamo, e vabbè, tu lo sai che chi ha partecipato, noi comunque diamo sempre tutti quanti i riferimenti, perché è giusto poi ovviamente utilizzare il massimo di questo strumento metadivulgativo che è il podcast, che permette di abbinare ovviamente testo, contenuti e audio nella stessa pubblicazione su iTunes in particolare. Roberto, vai. Beh, diciamo che appunto il nostro è un ringraziamento appunto di cuore per i tuoi interventi, e speriamo che l'avventura testuale in qualche modo abbia successo che pensiamo meriti, visto che al di là del fatto che sia un genere storico, comunque è un genere narrativo e probabilmente non ce n'è mai abbastanza nel mondo videoludico odierno. Detto questo, secondo me possiamo giustamente ringraziarti, no, l'ho detto 8 volte, ma ci tengo a sottolineare appunto quanto veramente siamo stati contenti di ospitarti e salutarti alla prossima, sperando ci sia un'occasione magari per trovarci ancora insieme a parlare o raccontare ancora di avventure testuali. Ma sicuramente. So che sei disponibile. Roberto, io quello che secondo me è importante dire è che vanno ringraziati 80 volte quelli che si sono adoperati per tradurre Zork in italiano. Adesso i nomi mi sfuggono, però magari sarebbe il caso di citare questi eroi che si sono impegnati in quest'opera così complicata, così vasta, che permetterà anche a chi non mastica l'inglese di giocare un pezzo di storia videoludica mondiale, giusto? Sì, sicuramente. Considera che poi nelle note metteremo anche un piccolo diario della traduzione che sta svolgendo appunto su Zork da parte di Uso Sonic Wovian e Ragfox, che sono due ragazzi di Games Italia, appunto, in modo tale che chi voglia possa anche entrare un attimo in quello che è l'atmosfera di questo lavoro. E niente, appunto, ti salutiamo, ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto e stai facendo per il mondo avventure testuali, e poi c'è anche Simo e Alex che vogliono salutarti. Grazie a voi, e sì, comunque siete stati magnifici. Soprattutto a Cambridge, direi, è stato fantastico. Dai, ancora che organizzeremo presto una gita scolastica a Cambridge, posto che riusciamo a trovarla. Ok, salutato Marco, a questo punto non ci rimane che concludere la puntata entrando in quel bar su Mele Island. Allora, tra grog e altro, ovviamente siamo nella parte finale dove ringraziamo tutti coloro che ci hanno ascoltato, ma non soltanto. Una menzione speciale se lo merita, che chiaramente Paolo Gabriele Spredda, che è la voce che avete sentito a inizio puntata, e quell'intervento che abbiamo messo proprio all'inizio e che parlava proprio appunto di Zork in italiano. Lo ringraziamo ovviamente per il suo intervento e anche per il tempo che ha dedicato, insomma, per esprimere le sue considerazioni. Detto questo, ci abbiamo da fare invece un saluto, lo abbiamo già fatto lo abbiamo già fatto da qualche altra parte, però lo rifacciamo. Ah, l'abbiamo fatto su dietrologia videoludica, chiaramente, perché è tornato prima su dietrologia videoludica, ma poi è tornato anche su archeologia videoludica. Vi ricorderete, probabilmente mesi fa abbiamo salutato Enrico Guybrush 77, che per un periodo di tempo non ha potuto interagire con noi per problemi di salute, ma ci ha sempre fatto piacere sapere che, insomma, gli abbiamo fatto compagnia, e soprattutto ci fa piacere il fatto che è tornato, che è la cosa ancora più importante. Quindi salutiamo Enrico, penso, insomma, da parte mia, da parte di Giuseppe e Marco, senza meno, perché anche loro ci tenevano ovviamente a portare i propri saluti, e poi ovviamente di Alex e di Roberto, che sono qui, insomma, se volete fare ciao ciao ciao a Enrico. Ciao Enrico. Detto questo, Enrico ovviamente nella sua riconversione, nel suo ritorno come la Fenice, ha cambiato nome, non si chiama più Guybrush 77 ma si chiama Game Over, e ci ha lasciato ovviamente su archeologia videoludica proprio uno dei suoi lunghi commenti, tra l'altro anche su dietrologia videoludica fa così, quindi ci fa piacere, perché comunque sono sempre commenti pieni di spunti, e ovviamente questo la lettura se la pappa Alex, che è molto più veloce di me, che se, insomma, se dovessi iniziare a leggere io, finiamo con la puntata numero 11. Game Over. Bella puntata, complimenti. Avete analizzato molto bene la chiusura della Lucas, sia qui che nella bellissima puntata di dietrologia. Nulla da aggiungere, se non che anche per me è stato un brutto colpo, per tutta la magia che mi hanno fatto vivere con le loro avventure grafiche. Però, pensandoci bene, la cosa non mi stupisce ed era prevedibile. E dispiace anche per le persone che magari restano a terra senza lavoro. Lucas è stata l'esempio, secondo me, di come delle menti geniali come i suoi autori storici, lasciati liberi o quasi di esprimersi, siano in grado di creare i prodotti mille anni avanti, sia per l'epoca, sia ancora rispetto a molti giochi moderni. Poi, quando se ne sono andati, dopo il mitico Green Fandango, la magia è finita. Sicuramente la Disney ha fatto una scelta puramente economica, nulla di più. È stato un po' come una serie TV, dove gli attori principali se ne vanno, continuano comunque a girare nuove stagioni sempre più deludenti, fino a chiudere poi l'intera serie. Magari i vecchi autori acquistassero i diritti delle saghe principali e continuassero a sfornare capolavori, ma sanno benissimo che è solo un sogno, un'illusione nostalgica. Beh, sì, fondamentalmente un po' è quello che abbiamo, insomma, detto. Ovviamente stiamo parlando della puntata precedente, dove abbiamo parlato, abbiamo fatto, insomma, questo piccolo excursus, le due puntate speciali che abbiamo fatto su Disney, e in particolare sulla LucasArts, che abbiamo fatto sia su dietrologia videoludica che archeologia videoludica. Roberto, c'hai qualcosa da aggiungere, magari da rispondere a qualche alla riflessione del nostro ascoltatore? No, sicuramente ringraziamo Enrico per quanto ci ha lasciato, che sono sempre commenti molto interessanti. Peraltro è un episodio della Lucas, quindi i commenti sono feccati anche per questo motivo, sia qui che su Games Italia, dove sono passato per un serial killer, quindi dovete immaginare che la mia carriera di podcast sta prendendo una piega un po' particolare, questo sicuramente. Va bene, e invece ringraziamo anche Rizel, che anche lui ha lasciato il suo commento dicendo che in fin dei conti Disney non può essere biasimata per la chiusura di LucasArts, perché era da tempo che ovviamente lo studio non produceva più giochi. L'ultimo, secondo lui, videogioco che meritava questo nome era Star Wars Il Potere della Forza, e ce ne vuole, insomma, per definirlo anche un gioco, nel senso, sì, un gioco lo era, ma sicuramente non era un granché, che ovviamente, come lui giustamente dice, non era neanche lontanamente paragonabile a Knights of the Old Republic, che invece è stato il grande capolavoro, forse veramente il momento più alto, poi ovviamente non è stato neanche, tra l'altro, sviluppato da LucasArts. Di avventure grafiche ovviamente non se ne vedevano, insomma, non se ne vedeva più l'ombra, quindi comunque la conseguenza della chiusura di Lucas era piuttosto logica, ma fondamentalmente è quello che abbiamo detto anche noi abbiamo fatto semplicemente delle riflessioni dal punto di vista poi morale, emotivo, magari, o forse sul fatto che magari con franchising come quelli probabilmente si sarebbe potuto gestire anche un atteggiamento anche nostalgico, anche verso i fan, che probabilmente avrebbe potuto essere un po' più forse meno miope, ma questo è un nostro punto di vista. Comunque, al di là dei tristi ricordi, ovviamente come sempre è un'ottima puntata, ma insomma è rimasto deluso da una cosa, perché dall'immagine di copertina si aspettava che la conduzione dell'episodio Alex la facesse Darth Vader, invece no. Darth Vader, diciamo che è stato mandato via, anche lui è a spasso. Ok, va bene ragazzi, a questo punto io direi, Roberto, ci abbiamo altro da dire? Io penso che la scaletta l'abbiamo succhiata fino all'inverosimile, non credo ci sia altro da dire. Questo quando... Sì, se non il fatto che appunto possiamo lasciare in bellezza probabilmente. Ah sì. Giusto, concludiamo con questo ennesimo regalo che vi facciamo, ed ennesimo regalo che ci è stato fatto, perché chiaramente per noi è qualcosa di estremamente importante, insomma è sempre un elemento prestigioso da aggiungere all'interno del nostro programma, con questo contributo audio finale proprio di Enrico Colombini, che insomma, sai, quando si parla di avventure grafiche e non avere o Bonaventura o Enrico, insomma, sarebbe un po' un peccato, insomma. Per il resto, subito dopo, ovviamente, alla questo contributo sarà la sigla, quindi arrivederci alla prossima puntata. Ciao ragazzi. Ciao raga. Zork, The Great Underground Empire. No, per molti fu la scoperta del grande fascino delle avventure testuali. Per me, stranamente, rimane in un certo senso The Not So Great Underground Empire. O intendiamoci, Zork è e rimane una pietra miliare, sia nella storia e i giochi per computer, sia nell'interazione uomo-macchina. Ma nel mio caso particolare, il fato, volle che incontrassi prima di Zork, la Colossal Cave, la prima avventura della storia, e dello stesso periodo di Zork, le prime avventure grafiche Sierra, a partire dalla Mystery House, che fu un po' la progenitrice di tutte loro. E fu con queste esperienze che scrissi le mie prime avventure come avventura del castello. Quando più tardi mi trovai a giocare Zork, mi divertì molto, ma devo dire che ne rimasi più colpito dal lato tecnico che non da quello ludico. Il parser era certamente quanto più avanzato si fosse visto. Io potevo scrivere una frase del tipo: metti il gatto soriano e il gatto siamese sulla poltrona rossa, poi libera il canarino e il mastino affamato. E dal punto di vista tecnico questa cosa era veramente notevole. Ma passata questo entusiasmo iniziale per la novità del parser che capiva le frasi complicate, come giocatore alla fine questa cosa diventava un po' più burocrazia che divertimento, c'era tanta roba da scrivere e mi dava un po' l'impressione di rischiare di compromettere l'immedesimazione, di far sentire un po' distaccati, di star parlando con una macchina e non di essere dentro nel gioco. Tanto che alla fine, benché mi fosse naturalmente venuta l'idea di fare una cosa del genere, rinunciai a fare un parser per così dire intelligente e preferì invece andare in direzione opposta, semplificando l'interazione col giocatore. Anche perché questo tipo di interazione complessa permette sì di chiedere di scrivere di tutto, ma poi, siccome naturalmente il gioco non può rispondere a tutte le possibilità, finisce che dà l'impressione di capire di meno, paradossalmente, rispetto a un gioco che capisce solo frasi semplici che l'autore può in gran parte prevedere, quindi dando una risposta a quasi tutte le azioni, una risposta non standard fondamentale a quasi tutte le azioni che il giocatore può fare. Ma qui sto divagando. E oltre a divagare, io devo anche chiedermi, sarò sincero, perché sono passati più di 30 anni, ho lavorato parecchio in questo campo, ci ho riflettuto sopra parecchio, insomma la memoria potrebbe giocarmi anche qualche scherzo. Oppure, per usare un eufemismo, la mia memoria non mi sta riportando fedelmente le impressioni dell'epoca. Io ci ho provato in questi giorni a ricordarmi qualche episodio di Zork. Non me ne sono ricordato nemmeno uno, evidentemente non avevano lasciato il segno, tranne i gru che ti divoravano se uscivi dalla zona illuminata, quelli me li ricordo. O naturalmente può essere che io sia più rimbambito di qua perfino di quanto credessi, oppure che davvero questa trilogia di Zork non mi avesse particolarmente colpito, tanto più che invece mi ricordo perfettamente sia tante scene della Colossal Cave, che quando la giocai, io ebbi l'occasione di giocarla come Apple Adventure, e mi ricordo anche tante scene di avventure Infocom successive a Zork, come Planetfall, Suspended o Enchanter, che usavano lo stesso identico parser di Zork, anzi spesso lo sfruttavano meglio, come nella scena della tartaruga di Enchanter, scena celebre per chi l'ha giocato. Oh, non vi dico niente, ma Enchanter va giocata, come anche decisamente Planetfall. Queste avventure però senza Zork non sarebbero mai esistite, quindi Zork è importante, è fondamentale. Queste avventure qua me le ricordo soprattutto per la storia e gli enigmi. Diciamo, Zork era una collezione di enigmi e poi si sono evolute aggiungendo una narrativa che è una narrazione che cattura il giocatore. A proposito, fu proprio Enchanter a darmi l'ispirazione iniziale per quando stavo pensando a fare l'apprendista stregone. Pur se nel mio caso particolare, come dicevo, Zork non fu un'esperienza fondamentale, rimane in ogni caso un punto fermo nella storia dell'informatica e anche un qualcosa di decisamente diverso dal solito per un giocatore contemporaneo, e comunque un'avventura che vale la pena di giocare. Fatelo, anche solo per dimostrare che io ricordavo male. Atrom è acidulo e div aigo loecra. Quest'anno a Natale porta in tavola il gusto e la bontà di Aia. Acquista un prodotto Aia con etichetta del concorso dal 1 al 24 dicembre e partecipa al calendario dell'avvento. Ogni giorno in palio tanti premi Philips. Regolamento su aiafood.com. Buone feste da Aia.